Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Benvenuti a questa puntata speciale di Voci d'impresa e Voci di piccola impresa, realizzata in occasione del Salone dell'imprenditoria femminile e giovanile Gamma Forum, che si è tenuto a Milano alla sede del Sole 24 Ore il 10 novembre scorso. Vi racconteremo le storie di due imprenditrici che nelle loro aziende mettono in pratica l'open innovation, l'innovazione aperta, parola chiave del premio Gamma Donna. La prima storia è di una delle finaliste dell'ottava edizione di questo premio, nato a Torino nel 2004 con l'obiettivo di individuare su scala nazionale esempi virtuosi e poco conosciuti di imprese innovative, condotte da donne e giovani. Si tratta di Carla Delfino, presidente di Scappatopo SRL. L'idea innovativa è un repellente ecocompatibile a base di un mix di oli essenziali assorbiti su granuli di mais, che col profumo gradevole allontana i topi senza eliminarli né inquinare l'ambiente. Carla Delfino ci spiega come e perché. Scappatopo è un'idea molto particolare. È nata perché ci è stata fatta una richiesta. Ci hanno detto: ma noi non vogliamo più adoperare i topicidi, sono tossici, sono inquinanti, soprattutto non funzionano. Facevo tutta un'altra cosa, ho cominciato a pensare, ma effettivamente è un bel mercato. Ho visto che la legge stava cambiando, la comunità europea ha immesso sul mercato una legge che impedisce e impedirà sempre di più l'immissione di veleni tossici nell'ambiente, e dal 2018 non saranno più in vendita i topicidi al pubblico, e quindi c'era un grande mercato, ma non c'era nessuna soluzione. Quindi è venuta fuori la mia, diciamo, vocazione di storico, e sono andata a cercare un po' in giro per il mondo tutto quello che esisteva sia sui topi che sulla repellenza, e mi sono accorta che nel passato c'erano tante soluzioni, però queste soluzioni evidentemente non funzionavano, visto che poi sono stati creati i topicidi. Scappatopo è un prodotto, un profumo che tiene lontani i topi senza uccidere, senza inquinare, in modo efficiente, che funziona meglio dei topicidi tradizionali e in più ha il vantaggio di non uccidere, di non inquinare. Questo è il nostro core business. Abbiamo tanti prodotti che sono nati successivamente, e questi prodotti nascono proprio perché siamo open al mercato, il mercato ci fa delle richieste. Per esempio, il mercato mi ha detto: io ho un problema con i ghiri sono animaletti che non si possono ammazzare, però sono molto fastidiosi e creano tanti danni. Bene, abbiamo sviluppato un prodotto specifico per i ghiri, e adesso i ghiri stanno tranquilli a casa loro, non vengono più a casa nostra. La sua esperienza nasce anche da storie precedenti, quali? Io avevo due imprese, e una si occupava di fare il buyer per altri grandi clienti. Avevamo una postazione in Cina prima di Alibaba, e anzi a Hong Kong, e poi facevamo macchine per controllare i soldi, per vedere se i soldi erano veri o no. Noi vendevamo in Italia, vendevamo in tutta Europa, perché quando è entrato l'euro il problema era conoscere i soldi falsi. Chi vi ha aiutati? Quali sono state le leve che vi hanno fatto crescere, come anche quella dell'Open Innovation? Abbiamo utilizzato sostanzialmente dei supporti di ricerca da parte delle università, che ci hanno aiutato molto, ma nello stesso tempo io collaboro con moltissime giovani donne che ho conosciuto nei vari episodi del Big Lazio, e sono entrate in azienda con me. Chi si occupa di grafica, chi si occupa di 3D design, chi si occupa di Facebook. E il Gamma Forum e il Gamma Donna sono veramente un acceleratore incredibile. E io vedo che veramente nel mondo del lavoro, nel mondo dell'impresa, ci sono sempre più donne capaci, qualificate. Quindi, signori uomini, state attenti, perché è vero che ci impedite di rompere questo benedetto soffitto di vetro, però fra un po' veramente forse la situazione sarà invertita, perché sono veramente brave le donne, sono veramente capaci. Ecco, i valori sono importanti, ma anche il fatturato, e voi riuscite a conciliare tutto. Qual è il vostro modello di business? Allora, noi stiamo triplicando il fatturato di anno in anno, siamo molto contenti. Noi abbiamo un B2B, quindi abbiamo naturalmente una rete di distributori, ma lavoriamo molto con il B2C, cioè a me piace molto sapere dai clienti quali sono i loro problemi. Lavoriamo molto, e io credo assolutamente che la vendita online sia il futuro di questi prodotti. in tutta Europa, ti consente di lasciare dei margini interessanti in azienda che tu puoi reinvestire in comunicazione, reinvestire in ricerca. E queste filiere lunghe, e un prodotto che da 2 euro viene a costare 20 euro sul mercato, secondo me sono modelli ottocenteschi che devono veramente cambiare. Per parlare di cifre e numeri, quali sono, diciamo, le fiche applicate, come ci si può rivolgere a voi anche online? Il nostro sito è scappadopo.it, potete acquistare direttamente da noi. Tutti coloro che hanno problemi di topi, che non vogliono inquinare e soprattutto che vogliono risolvere il problema, perché è un problema di tutti. Il principe William ha avuto la moto rosicchiata dai topi, ha speso 6.000 sterline, quindi non è un problema economico, i topi stanno da tutte le parti. Quindi scappadopo.it, entrate sul nostro sito e acquistate e risolvete in modo ecosostenibile un problema vecchio come il mondo. Per quanto riguarda appunto il costo, per i privati o per le aziende, la forbice varia da A? Scappatopo viene venduto a circa 14 euro a pezzo, dura 2 mesi. In alcuni ambienti piccoli, tipo le cabine elettriche o i controsoffitti o le garage, può durare anche di più. Apri questa bustina, la metti nel suo astuccio e la lasci lì e ti fa un profumo delizioso che i topi non sopportano. Per questo scappano, si ricordano che in quell'ambiente c'è quell'odore e non tornano più. È un odore talmente aggressivo per i topi che io lo paragono sempre a un ambiente dove c'è spazzatura vecchia di un mese e acido muriatico. Quindi tu che fai? Scappi, vai via. Il topo non ha tempo di imparare, il topo non ha tempo di fare resistenza. Io non inquino, lascio un ottimo profumo e non ho più i signori topi che vengono a visitare l'ambiente dove vivo. Concetto porta blindata. La sua innovazione ha ottenuto anche un riconoscimento europeo e un riconoscimento internazionale. Quali? Noi siamo state l'unica azienda finora, quindi da 12 anni, a aver preso il premio Cartier a Parigi come prima azienda in Europa nel 2014, come dicevo appunto. È stata una cosa incredibile, un'esperienza eccezionale. Abbiamo combattuto con migliaia di aziende di tutto il mondo e abbiamo vinto. In più noi siamo SME Champions, abbiamo avuto finanziamenti e funding per la ricerca dalla comunità europea e abbiamo ottenuto il Seal of Excellence, che è un riconoscimento rarissimo proprio per la nostra innovazione e per l'impatto sociale, la sostenibilità della nostra azienda. La seconda storia è di Mary Francese di Neuron Guard, startup biomedicale che ha ricevuto il Giuliana Bertin Communication Award 2016, il riconoscimento voluto dall'agenzia Valentina Communication per l'imprenditrice che meglio ha saputo raccontare e promuovere l'azienda sui canali media tradizionali e social. Ed ecco come Mary Francese racconta la sua open innovation. La lampadina si è accesa nel 2012, a Enrico Giuliani in particolare, quando, a seguito di un'osservazione diretta e di un caso in famiglia di ictus, decide appunto di sviluppare questo dispositivo medico, che è un collare refrigerante collegato a un'unità di controllo esterna e serve per trattare i pazienti post ictus, arresto cardiaco e trauma cranico direttamente sul luogo dell'evento, perché l'obiettivo è quello di salvare quanto più possibile il patrimonio di neuroni dei pazienti che sono stati colpiti da questo tipo di patologia. Entro in azienda io nel 2013 a seguito di un programma di accelerazione, lì il connubio con Enrico grazie alle competenze mie manageriali unite a quelle sue tecnico-scientifiche. Ad oggi NeuronGuard ha sviluppato diversi prototipi, li abbiamo testati in laboratorio e il nostro obiettivo è quello di fare i test sull'uomo il prossimo anno in collaborazione con 2 aziende inglesi, l'Università di Cambridge e TVI, che è un'azienda che si sta occupando della progettazione. Open innovation, parola chiave, ma soprattutto è un elemento importante che vi ha aiutato anche a crescere nonostante la crisi e a trovare una direzione. Che cos'è per voi open innovation e come è stato l'incontro con Gamma Forum? Open innovation per noi è un po' tutta la storia della nostra azienda. I primi dispositivi noi li abbiamo sviluppati in collaborazione con un'azienda di Vignola, Tecnoelettra Impianti, che è specializzata in sistemi elettronici avanzati, per cui un settore completamente diverso da quello biomedicale. Quello che cerchiamo noi attraverso per innovation e mettere in contatto diversi attori dell'ecosistema economico e manifatturiero, a prescindere dai confini territoriali. Il Gamma Forum, per cui anche il premio che ho ricevuto oggi, il Giuliana Bertin Communication Award, ci dà conferma dei risultati comunicati finora. Siamo comunque molto soddisfatti perché ricevere un premio sulla comunicazione dà conferma che i dati trasmessi finora sono quelli giusti, però non è mai abbastanza. Quindi ben venga il master che ho ricevuto, quello in comunicazione digitale, vuol dire che sarò anche a passo con i tempi, con la digitalizzazione. I ritorni dell'Open Innovation, perché bisogna anche capire quanto fatturato può produrre essere aperti. Essere aperti può produrre fatturati altissimi. Noi arriveremo sul mercato nel 2018 e raggiungeremo un punto di pareggio dopo 2 anni dalle vendite, perché cominceremo le nostre vendite in Italia ma guardiamo al resto del mondo. È importante l'open innovation non solo da un punto di vista di raggiungimento di risultati economici ma anche di raggiungimento di risultati sociali. Il nostro dispositivo non mira solo a salvare i budget dei sistemi sanitari ma anche quello di salvare le vite di pazienti, a cambiare il loro modus operandi, ma soprattutto a pensare a tutto il contesto sociale, perché oggi chi soffre di più in questi casi sono soprattutto le famiglie e chi si prende cura di queste persone. Quindi fatturato ma anche valori. Fatturato e valori. Non a caso parliamo spesso di corporate social responsibility. Un'azienda deve essere responsabile e portavoce di valori che siano il rispetto non solo per l'ambiente ma anche per tutti gli stakeholder che ci circondano. In quanti siete adesso in azienda e contate magari di crescere grazie a questa innovazione? Noi attualmente in azienda siamo full time, solo io ed Enrico. Enrico si occupa della parte tecnico-scientifica, io della parte business e comunicativa. Abbiamo 7 ingegneri che lavorano in Inghilterra, TVI, in questa azienda, un capo progetto, 2 clinical advisor. Poi naturalmente abbiamo i nostri soci che sono entrati attualmente, un pool di consulenti da quello brevettuale italiano, quello brevettuale americano, quello legale, quello economico-giuridico. Diciamo che full time siamo solo noi, ma c'è una bella rete. Questa e altre storie, in anteprima, inedite o in versione più lunga, ma anche idee e novità per l'impresa, potete trovarle sul sito di Radio 24, www.radio24.it, cliccando sulla pagina programma di Voci d'Impresa e curiosando nella sezione extra, dove potete anche scriverci i vostri messaggi e le vostre storie. Voci di Piccole Imprese su Twitter con l'account @vocipmiradio24, su Facebook alla pagina Voci di Piccola Impresa, il blog e il download sono sempre su www.radio24.it. Un saluto da Anna Marino.